Jan. Ehi, lo sai com'è che li buttiamo giù adesso? Guerra fratello. Ok, spiegami com'è che insisto con il rap. Filosofia del fai da te mi servirà per fottere il tuo bluff. Il fatto è che se sto con Sam, Fante, Cavallo e Re, li mandiamo dritti a casa tutti e tre. Chiama tutti quanti gli alleati, rispedisco la tua posta con gli MP3 allegati. Vivo in un mondo di negati, infatti se solo apro la bocca state zitti. Sfigati. Butto fuoco con gli amici miei, finisce che ti bruci come la fottuta gioventù di James. Tu pensi ad avere uno stile in voga, io ti tolgo l'equilibrio come il pubblico che poga. E al giorno d'oggi non mi si capisce, eppure parlo chiaro, fanculo chi si stupisce. Per i soldati, per le nostre siste, fermarci, che cazzo, non esiste. 08 quando il gioco si fa duro, circostanze di guerriglia SNK 61. Sarà il diluvio perché questo è il mio preludio. Chi intuisce a cosa alludo non si sente più al sicuro. Alzo la pressione sopra il suono di battaglia e sale la tensione qua, nessuno si risparmia. È la sostanza che fa la differenza, oltranza pesante, questa è la partenza. Alzo la pressione sopra il suono di battaglia e sale la tensione qua, nessuno si risparmia. È la sostanza che fa la differenza, oltranza pesante, questa è la partenza. Arrivo e faccio il rap perché lo sento dentro in me. Resta vivo il sentimento per l'ipo frate, quel poco di buono che ci resta in una città come questa. Con ogni poco di buono il mio tocco buono, tipo fumo, tipo giuro, sento puzza di merda, non dell'erba né del fumo. Tappo il naso, non la bocca, e mi sbatto sullo stesso muro di 8 anni fa. Rime a dirotto con le quali attacco e faccio scudo. Sam 61 è che gli è crudo. Se vuoi sentire cose vere, ascolta questa merda. Vai sul sicuro, c'è chi ci manderà in affanculo di sicuro. Ma qua non si finge, chi dice che sparge sangue invece è solo ketchup. Guarda, guarda, la gente a Sassari satteggia, Sassari marcia e lercia, Sassari futti beccia. E già, noi la parte che non indietre, già, da un pezzo dal basso del solito palazzo, ma zero re, già, produzione casa re, cia. Alzo la pressione sopra il suono di battaglia e sale la tensione qua, nessuno si risparmia. È la sostanza che fa la differenza, oltranza pesante, questa è la partenza. Alzo la pressione sopra il suono di battaglia e sale la tensione qua, nessuno si risparmia. È la sostanza che fa la differenza, oltranza pesante, questa è la partenza. Aglio scenario teso delle nostre rime, puoi sentirne il peso. Tappati le orecchie se non reggi queste produzioni, questi suoni, questo rap pesante, ma che è solo il primo carico. Drammatico, caro b-boy apatico, senti un attimo, io non punto mica ad esserti simpatico, ma voglio solo metter su una fortezza. Ci affacciamo alla finestra per la prima conferenza. Messaggi slogan per il popolo, qui assaggi foga, blocca l'hip hop se ci riesci, per noi è droga. Da 9-9 ancora senza scrupolo, diciamo quel che c'è da dire, non è fine e non c'è fine. Sulle linee restiamo temperando mine, nella notte caricando pile, teste sveglie alle mattine. Mangia carne che trituro, ci campi fino all'anno 21 e pensa di pararti il culo. Casus belli, vediamo se ci fermi, pestiamo come dei martelli, lingue o coltelli. Sì, sì. E se cercavi dei contegni, sono brutti segni, frate, conviene che ci spegni. Alzo la pressione sopra il suono di battaglia e sale la tensione qua, nessuno si risparmia. È la sostanza che fa la differenza, oltranza pesante, questa è la partenza. Alzo la pressione sopra il suono di battaglia e sale la tensione qua, nessuno si risparmia. È la sostanza che fa la differenza, oltranza pesante, questa è la partenza.